Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Mercato del lavoro, l'impegno di Confindustria per il coinvolgimento dei richiedenti asilo nelle crisi di manodopera, gli esempi virtuosi già in atto. Il disagio degli autisti nel trasporto pubblico, insulti, minacce, aggressioni in aumento, le aziende confermano l'impegno sulla sicurezza e i sindacati chiedono uno sforzo ulteriore. Compravendite immobiliari in forte frenata a penalizzare l'andamento del borsino, il rialzo dei tassi e la stretta del credito. Giornata mondiale del latte, il Friuli Venezia Giulia ne produce 250.000 tonnellate l'anno, uno dei settori trainanti dell'agroalimentare. Attacchi informatici, le aziende si confrontano e si attrezzano per prevenirli, un seminario organizzato dagli industriali. A Trieste è intitolato un istituto comprensivo a Margherita Hack, adesso dice il sindaco di piazza, ci vuole una statua. Rifugio Corsi a 6 anni e mezzo dalla chiusura, le prospettive del recupero, l'Alpina delle Giulie ha affidato la progettazione. Calcio, piove sul bagnato in casa del Pordenone che è stato eliminato dai play-off dal Lecco che aveva battuto all'andata. 12:31 minuti, 20 secondi, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Immigrazione, accoglienza, lavoro, concetti strettamente intrecciati nella nostra realtà odierna e cercando di mettere in relazione il numero dei richiedenti asilo con le persone che provenendo da quel bacino hanno trovato anche un impiego, abbiamo scoperto una realtà con ampi margini di miglioramento e la stessa Confindustria prende un impegno concreto sull'impiego dei migranti per la manodopera. Carenza di manodopera non specializzata da un lato, presenza massiccia di richiedenti asilo che vediamo stazionare, a volte bivaccare, nelle nostre città dall'altro. Ci siamo chiesti se queste persone non possano essere un bacino interessante dove attingere per trovare nuovi lavoratori. Dai nostri studi di Buongiorno Regione, il presidente della Confindustria regionale Pierluigi Zamò accetta l'ipotesi di ragionare ad una soluzione. Essendo stato il Friuli una grande fonte di emigrazione, dovremmo riprendere una cultura che abbiamo avuto e quindi fare sistema per risolvere questo problema. Dico la verità, finora non abbiamo fatto sistema, però colgo l'occasione proprio di questa trasmissione che ha sottolineato un problema grosso, dobbiamo farlo per risolvere un grosso problema. Ma la legge cosa dice? I richiedenti asilo possono lavorare in Italia? Nicola Manfren, Direzione Lavoro. Un richiedente asilo presenta una domanda e ottiene un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi, valido su tutto il territorio nazionale, può iniziare a lavorare decorsi 60 giorni dalla presentazione di questa domanda. Tutto nasce da un nostro servizio in cui una ditta friulana di impianti elettrici, non trovando lavoratori, era andata a cercarli, trovandoli, dentro la Cava Arzerani. La struttura ospita circa 500 persone, 130 attualmente lavorano per lo più nel mondo dell'agricoltura, ha detto il prefetto Massimo Marchesiello. All'assessore Alessia Rosolen chiediamo se c'è l'interesse da parte della regione di promuovere l'incontro tra domanda e offerta. Io penso che chi si occupa della gestione di queste persone abbia in primis il dovere di fare promozione di servizi che sono garantiti da subito. Come già accade per i recruiting day fatti in collaborazione con la regione in cui le aziende danno numeri e profili delle loro necessità per figure specializzate, un domani queste stesse imprese potrebbero richiedere anche manodopera non specializzata che difficilmente i lavoratori italiani riescono a soddisfare. Io mi incontrerò mercoledì prossimo con l'assessore Rosolen e questo sarà uno dei punti, perché dobbiamo risolvere i problemi vedendoli in positivo per il futuro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. La cronaca, un bambino di circa 2 anni ha rischiato di annegare questa mattina sulla spiaggia di Grado. Erano da poco passate le 11 quando è finito sott'acqua e fortunatamente è stato soccorso prima che fosse troppo tardi. È stato tempestivamente assistito anche dai sanitari, accorsi dopo una chiamata di emergenza e trasportato all'ospedale di Monfalcone dove è stato accolto in codice giallo per accertamenti. Sono ancora al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio della scorsa notte a Brugnera. A fuoco un edificio per la distillazione di solventi della Hub Finiture in via dell'Artigianato, edificio circondato da alberi di alto fusto e poco lontano dallo stabile principale dell'azienda di verniciatura. I vigili del fuoco di Pordenone, allertati poco dopo le due dalla sorveglianza aziendale dai residenti della zona, sono riusciti a domare le fiamme con un intervento durato circa 3 ore. Danni ingenti, ma solo materiali. Gli episodi dei giorni scorsi hanno riacceso i riflettori sulla situazione di forte disagio degli autisti del trasporto pubblico, offesi, minacciati, fin troppo spesso malmenati. Le aziende confermano il loro impegno sul fronte della sicurezza, i sindacati chiedono uno sforzo ulteriore. Al momento a dare la misura del fenomeno c'è solo la percezione raccolta tra gli autisti dai sindacati e dalle aziende di trasporto pubblico locale. Le aggressioni ci sono sempre state, ma adesso accadono più spesso e da parte di persone insospettabili, afferma Antonio Pittelli, segretario generale della FIT CISL. Insulti, sputi, minacce, spintoni sono all'ordine del giorno, aggiunge. Poche le denunce, rileva il sindacalista, secondo cui a scoraggiarle la mancanza dell'immediatezza della pena. Confermano l'aumento delle aggressioni verbali dalla pandemia a oggi anche la segretaria generale della WIL Trasporti, Patrizia Zambon, e dal fronte aziendale il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi. Entrambi, andando a memoria, segnalano che sono pochi, fortunatamente, i casi estremi, come l'accoltellamento dell'autista Trieste di lunedì scorso. Quel giorno stesso dai sindacati è partita la richiesta al prefetto di Trieste di un incontro urgente insieme ai vertici del TPL, il Comune e la Regione, già annunciato per mercoledì prossimo. Peter Cisley intanto rilancia la proposta di un tavolo permanente sull'emergenza e del DASPO dei mezzi pubblici per chi commette atti di aggressione o violenza. I sindacati in generale chiedono di mettere in campo subito nuove azioni per proteggere gli autisti e anche i viaggiatori. Sulla prevenzione, più che sulla repressione, insiste anche il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. Una cabina blindata e più controlli a bordo. A suo avviso alcune soluzioni deterrenti. L'attenzione di Trieste Trasporti è alta e l'impegno è costante, sottolinea il presidente Marzi, annunciando di essere al lavoro per migliorare il collegamento con la questura attraverso le 1450 telecamere installate sugli auto urbani che ogni giorno, rimarca, registrano tutto ciò che accade sui mezzi. Quanto all'aumento dei controlli già attivi sui bus, il questore di Trieste Pietro Stuni fa sapere che è una delle ipotesi che saranno vagliate all'incontro di mercoledì in prefettura. Lara Boccalonti, GR, scrive Venezia Giulia. I temi del lavoro e dell'economia, il premier della Repubblica Srpska Radovan Višković e il ministro dell'industria e dell'imprenditoria Vojin Mitrović saranno nel pomeriggio a Udine e parteciperanno in Camera di Commercio a un incontro aperto alle imprese. La delegazione di Sarajevo presenterà le opportunità di collaborazione commerciale, culturale e formativa anche alla luce delle sempre più ampie prospettive di collaborazione con la regione Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi i rappresentanti del governo dei Serbi di Bosnia ed Erzegovina hanno partecipato a una serie di incontri a Coseano e siglato con PMP un accordo per la realizzazione di una fonderia nel comune di Laktasi con un investimento di 37 milioni di euro. Parliamo ora del mercato immobiliare e dell'andamento in questa prima parte dell'anno. La frenata nelle compravendite è generalizzata, indotta soprattutto dalle politiche anti-inflazione. Il rialzo dei tassi e soprattutto la stretta del credito da parte delle banche penalizzano il mercato delle compravendite delle case. Nei primi mesi del 2023 si vede come l'effetto della restrizione monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea per frenare l'inflazione. Il quadro è emerso durante la presentazione dell'Osservatorio Immobiliare del Friuli Venezia Giulia della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. A pagare dazio sono in particolare i giovani, coloro cioè che solitamente hanno meno garanzie e meno capitale da affiancare ai mutui, che ormai sfiorano il 5% di interessi per un fisso. Il 2023, insomma, non sarà un anno record come quello passato. A livello territoriale si registrano crescite importanti per Trieste e Gorizia. In entrambi i casi pesano gli investimenti dall'estero. Se per l'Isontino l'attrattività è data da prezzi bassi e redditività di conseguenza alta, per Trieste c'è ancora un forte effetto turismo. Molti acquistano dall'estero senza nemmeno vedere di persona l'immobile. Salgono i prezzi degli affitti sia per la maggiore difficoltà a comprare sia per il successo degli affitti brevi, soprattutto in alcune zone del capoluogo regionale. Su questo il presidente nazionale FIAIP Gian Battista Baccarini dice no alla proposta del governo che vorrebbe proibire il pernottamento in case private per una sola notte. Una regolamentazione stringente sugli affitti brevi è stata chiesta da diversi sindaci italiani, ma per gli agenti immobiliari bisogna ribaltare la questione e rimuovere tutti gli ostacoli che disincentivano i proprietari a concedere affitti lunghi, come una maggiore facilità di sfrattare i morosi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I comuni, per voce del sindaco di Rude e rappresentante dei piccoli comuni Anci, Franco Lenarduzzi, chiedono una proroga ai tempi delle scadenze del PNRR a causa delle difficoltà di accesso e di implementazione dei dati sul portale Regis. Il portale ricopre il ruolo di raccolta delle informazioni e dei servizi legati al PNRR e qui vengono riportati passo passo gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal piano stesso. Sono procedure molto complesse, spiega Lenarduzzi, che richiedono tempo e ampia formazione, personale che possa dedicare tempo ed energie a questo, oltre che alle varie attività che un comune già svolge. Lenarduzzi allora rivolge anche alla Regione un appello più specifico: venga creato un fondo di rotazione che serva a sostenere gli investimenti dei comuni per l'attuazione del PNRR. Il Friuli Venezia Giulia produce poco più del 2% del latte italiano, circa 600 le realtà coinvolte nel settore che ha attraversato negli ultimi anni diversi momenti di crisi. Oggi si fa il punto nella giornata che l'ONU ha destinato alla sensibilizzazione su questo fondamentale alimento. La giornata mondiale del latte è stata istituita nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per sensibilizzare sull'importanza del settore lattiero caseario sia dal punto di vista nutrizionale sia economico. Sono 250.000 le tonnellate di latte che il Friuli Venezia Giulia produce all'anno, che coincidono con il 2,5% della produzione italiana, 600 le aziende sul territorio, un prodotto che negli anni è migliorato come sono cambiati i produttori. Fabiano Simsig, Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Sono migliorate le condizioni igieniche, sono migliorate le condizioni gestionali ed è quindi di conseguenza migliorata la qualità del latte sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista merceologico, dei parametri merceologici, ma anche dal punto di vista della struttura igienico-sanitaria. Il Friuli Venezia Giulia è stato sempre conosciuto per avere una qualità del latte più alta rispetto al resto d'Italia. Questo grazie anche alle razze bovine allevate. Qui si è sempre allevata la razza pezzata rossa, che aveva fra le sue caratteristiche proprio una qualità più alta per quanto riguarda i tenori di grasso e di proteine, quindi una resa più alta in formaggio e una migliore qualità dei formaggi prodotti. Qual è l'età media degli allevatori? Abbiamo, diciamo, tutte le età. Ci sono gli allevamenti più piccoli, dove ci sono ancora persone anziane innamorate dei propri animali, soprattutto collocate nelle zone di montagna, che, diciamo così, hanno proprio l'amore per gli animali e non riescono a stare senza, sono piccole aziende con pochi animali. Mentre nelle zone di pianura principalmente, dove le aziende sono più strutturate, ci sono anche molti giovani che portano avanti la loro azienda con profitto. Efficientamento e investimenti hanno fatto del settore lattiero caseario uno dei settori trainanti dell'agroalimentare italiano. Codroipo, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 11.000 capi d'abbigliamento contraffatti e quasi 53.000 confezioni di shampoo giunti a bordo di tir provenienti dal porto di Pendik in Turchia e diretti in Germania sono stati sequestrati dai funzionari della dogana e della guardia di finanza nel porto di Trieste. Dai controlli sul primo tir che trasportava lo shampoo era emerso il coinvolgimento di società estere non collegate al commercio di prodotti per l'igiene, mentre i capi d'abbigliamento trovati nel secondo autoarticolato erano nascosti tra articoli regolarmente trasportati. Valore della merce oltre 1 milione di euro. Si è da poco concluso il convegno Attacchi informatici, rischio crescente per le aziende, quali strumenti difensivi, organizzato da Confindustria Alto Adriatico e svolto in simultanea all'EF di San Vito e all'Urban Center di Trieste. Un'iniziativa intesa a fornire soluzioni concrete con indicazioni che spaziavano dalle problematiche progettuali delle reti alle tutele assicurative. I rischi sono alti e gli attacchi molto più frequenti di quello che si possa pensare anche nelle aziende della nostra regione. Si è parlato di cybersicurezza e della sua vitale importanza nel processo di trasformazione digitale delle imprese in un incontro organizzato da Confindustria Alto Adriatico, simultaneamente da Trieste e dalla LEF di San Vito al Tagliamento. Marco Olivotto è direttore generale della LEF. È quasi impossibile riuscire a fermare questo fenomeno che sta dilagando in tutte le parti del mondo. Bisogna assolutamente formarsi. Il comportamento delle persone è il primo elemento che genera questo tipo di rischi. Fare delle formazioni alle proprie persone per come comportarsi quando riceviamo delle mail che possono avere dei caratteri o che possono essere sospette, come riuscire a gestire degli SMS. Un grandissimo numero di attacchi informatici alle reti aziendali non arrivano dai computer ma arrivano dai telefoni cellulari. Quindi informazione, creazione di una cultura per riuscire a prevenire e a gestire in modo rapido eventualmente delle attività che sono partite e possono crearci dei problemi, e dall'altro lato anche avere strutture informatiche e strutture organizzative estremamente solide, pronte a essere velocemente ripristinate. L'EF ha già dedicato una decina di corsi alla protezione dei sistemi informatici per l'industria 4.0 e ITS Alto Adriatico diploma ogni anno 25 esperti in cybersicurezza. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Senza la separazione delle carriere tra giudice e PM è impossibile il giusto processo, l'ha detto il sottosegretario Delmastro a Trieste durante la presentazione del libro di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi. In Italia giudice e PM sono colleghi, hanno il medesimo organo di autogoverno, cioè il CSM, che decide le progressioni di carriera, i trasferimenti ed è, sostiene Giuseppe Benedetti nel suo libro Non diamoci del tu, la corporazione più potente che abbiamo nel paese. Il presidente della Fondazione Einaudi propone di istituire quindi due CSM totalmente separati, uno per i giudici e l'altro per gli organi requirenti, in modo da separare le carriere dei giudici appunto da quelle dei PM. Dobbiamo risolvere quello che è un vero vulnus nella situazione italiana. Noi siamo un unicum, negli altri paesi europei non esiste una situazione come quella italiana, cioè della carriera unica tra chi giudica e chi accusa. Io credo che sia fondamentale arrivare a rientrare in Europa. Senza la separazione delle carriere non può esserci giusto processo, sottolinea il sottosegretario Delmastro Delle Vedove. La riforma della separazione delle carriere in questo momento è alla Camera dei Deputati con una serie di proposte di legge, e certo che nel corso della legislatura traguarderemo questo risultato, perché è un risultato di civiltà giuridica. La separazione delle carriere potrebbe dare una spinta anche alla specializzazione dei PM, aggiunge il presidente Fedriga. La riforma Cartabia, da questo punto di vista, un passo avanti è stato fatto. Sicuramente però la distinzione del ruolo giudicante da quello inquirente è molto importante, anche penso per valorizzare la specializzazione, penso, dei PM, che di cui da tanti anni se ne parla. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste l'Istituto Comprensivo di Via Commerciale è stato intitolato questa mattina a Margherita Hack, l'astrofisica scomparsa 10 anni fa. E il sindaco Roberto Di Piazza, intervenuto alla cerimonia, dice: adesso ci vuole una statua. Non ha una via, una piazza, un giardino né una statua, ma adesso Trieste ha un istituto intero dedicato a Margherita Hack. È l'ex comprensivo di Via Commerciale, a lei intitolato su proposta della Consulta Femminile Cittadina. Come indica la presidente Anna Maria Mozzi, la scienziata morta a Trieste 10 anni fa è sempre stata una che ha rivendicato le libertà femminili, la parità di genere, le pari opportunità e l'autodeterminazione delle donne, fino in tarda età. Aveva appena 20 anni Roberto Benes, dirigente scolastico, quando incontrò l'astrofisica da segretario di un'associazione ambientalista. Si sedette accanto a lui, giovane sconosciuto, per la conferenza stampa, perché credeva in quello che stava facendo, dice Benes. Quello che conta non è il ruolo che hai, che ricopri, ma l'impegno civico per il bene comune, aggiunge. Margherita sarebbe sicuramente commossa, perché lei era una persona molto semplice e amava tutte le creature semplici, come i bambini. Le parole di Francesca Matteucci, che è stata sua erede alla guida del Dipartimento di Astronomia all'Università di Trieste. Solamente un terzo delle ragazze scelgono le discipline STEM, quelle scientifico-tecnologiche all'università. Vogliamo che il ricordo, il nome di Margherita, è stato ribadito, rappresenti per queste ragazze una prospettiva per diventare pilastro delle nostre comunità e della scienza. Grandi maestri fanno crescere i propri allievi, ha ribadito il rettore di Lenarda. E dal sindaco di Trieste, Di Piazza, presenta all'inaugurazione l'appello alle forze politiche per l'intitolazione di una statua o un mezzo busto. Su queste cose dice: perché dobbiamo dividerci? Bisogna far fronte comune, destra e sinistra, l'importante è fare. Trieste, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Università di Udine è sede di due progetti finanziati dalla Commissione europea per complessivi 470.000 euro destinati a ricerche innovative post-dottorato svolte da giovani studiosi nell'ambito del programma Marie Sklodowska-Curie. I progetti sono di Chiara Rossi, che studierà le sinapsi artificiali a basso consumo energetico grazie a un finanziamento biennale di 135.000 euro, e di Antonio Dell'Acqua, che indagherà i ninfei e le fontane pubbliche dell'Oriente Romano Antico, le attuali Giordania, Israele, Libano e Siria, dal primo secolo a.C. al VII d.C., nell'ambito di uno studio triennale finanziato con 320.000 euro. 70 anni fa a Castellammare di Stabia veniva il varo del battiscafo Trieste, geniale invenzione di Auguste Jacques Piccard. L'evento è stato celebrato nei giorni scorsi nei cantieri campani. Per l'occasione lo studioso triestino Enrico Alupka ha ricostruito le fasi iniziali dell'avventura del battiscafo e il rapporto tra Jacques Piccard e il collezionista Diego de Enriquez, che diede vita al prolifico rapporto italo-svizzero nell'esplorazione degli abissi. Da Trieste, proprio grazie al pacifista de Enriquez, ebbe infatti avvio il percorso che portò Piccard a raggiungere per primi quasi 11.000 metri di profondità nell'Oceano Pacifico. Alupka, autore del libro Trieste, pubblicato dalle edizioni Italo-Svevo, i documenti finora inediti su De Enriquez e Piccard sono anche il punto di partenza di un film documentario in uscita a settembre per Cinesole Cinema. Uno sguardo alla situazione del tempo sul Friuli Venezia Giulia: abbiamo cielo sereno, poco nuvoloso. Le temperature delle 11, a Trieste 22 gradi con temperatura del mare a 17. A Udine, a Pordenone 26 gradi, a Gorizia 25,5. A Tolmezzo 23 gradi, a Tarvisio 20, a Sappada 17, a Piancavallo 16 gradi, a Forni di Sopra 20 gradi, ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 12 gradi, sull'Ussari 11, a Lignano 26, a Grado 24, temperatura del mare nelle due località 19 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi pomeriggio: sulla zona montana probabili rovesci e temporali, possibili anche in qualche zona di pianura. Per domani cielo poco nuvoloso sulla costa, variabile sul resto della regione, con maggiore nuvolosità sulle prealpi. Già dalla tarda mattinata saranno possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sulla costa, venti di brezza. È stato affidato ieri l'incarico di progettazione per la ristrutturazione del rifugio Corsi, struttura inaugurata nel 1925 nei pressi delle pareti meridionali dello Jofuart e chiusa dal 2017 a seguito di una tromba d'aria che aveva divelto e ha asportato una falda del tetto e danneggiato l'interno. Il restauro prevede anche nuovi impianti e arredi, in aggiunta alla messa in sicurezza della teleferica annessa. Di proprietà del Ministero dell'Interno, il complesso in concessione alla Società Alpina delle Giulie. Al suo presidente Paolo Toffanin abbiamo chiesto quale sia l'importanza del rifugio per il territorio. Il rifugio Corsi è uno dei rifugi più storici qui delle Alpi Giulie, è in una posizione un po' un crocevia di sentieri dai quali è possibile poi accedere alle pareti di arrampicata più famose che abbiamo qui nelle Giulie. Ci può raggiungere da più parti, perché si può salire sia da Sella Nevea oppure dal Lago del Predil. È un punto molto, ma molto interessante, che può essere anche di raccordo con tutto il percorso alpino che abbiamo. Un punto d'appoggio fondamentale. Il progetto prevede ad oggi un recupero architettonico e funzionale del valore di 1.200.000 euro. La regione, tramite i bandi, ha messo a disposizione l'80% dell'importo, perché oltre non si può andare. Per l'appello mancano ad oggi circa 300.000 euro, che serviranno anche per rifare la teleferica, che oggi è in disuso, cifra che ci siamo impegnati a trovare con fondi privati, e quindi adesso ci stiamo orientando verso finanziamenti con fondazioni e quant'altro. I lavori sono iniziati sostanzialmente oggi. Avevamo già a suo tempo selezionato lo studio professionale che dovrà fare la progettazione esecutiva e la direzione lavori, e proprio l'altro giorno gli abbiamo affidato l'incarico. Ottava edizione per la mostra Icons of Art, che espone i quadri originali realizzati in mosaico del concorso Mosaic Young Talent e propone anche stampe fotografiche ad altissima risoluzione. In allestimento poi le applicazioni in campo fotografico e multimediale delle opere, la possibilità di ammirare la varietà dei materiali utilizzati, tra cui marmi policromi, smalti veneziani, ecosmalti, resine e inserti plastici o ferrosi. La mostra, che sarà inaugurata alle 18, sarà accessibile a Pordenone, alla Galleria Bertoia, fino al 2 luglio, dal venerdì alla domenica, con orario 15-19. Pagina dello Sport Calcio: non c'è fine alla serie di delusioni per i tifosi del Pordenone. Ieri sera l'eliminazione dai play-off di Serie C, proprio nel momento in cui la società sta per affrontare lo scoglio dell'istanza di fallimento. I neroverdi hanno perso 3-1 in casa contro il Lecco. Finisce con il Pordenone a terra, sconfitto dal Lecco, battuto con 2 gol di scarto, quello che nessuno dei neroverdi poteva immaginare ad un quarto d'ora dal 90esimo. Alla rete iniziale del vantaggio del Lecco, con deviazione di Dubičkas, aveva risposto Pinato, anche qui con deviazione di un giocatore avversario. Poi Pordenone che controlla, sfiora il raddoppio e non rischia nulla anche nella ripresa. Equilibri che cambiano con l'espulsione di Bruscagin per il fallo commesso su Bunino, lanciato a rete. Sentiamo il tecnico Domenico Di Carlo. Eravamo anche in partita anche 10 contro 11, la differenza l'ha fatta poi le palline attive, dove non siamo stati veramente attenti, concentrati e determinati a contrastare i loro 2 colpi di testa. A 6 minuti dal 90esimo il gol della Speranza, blu celeste, dello stesso Bunino e poi ancora la rete di Ardizzone a far crollare la speranza del Pordenone. Reti su palle inattive, errori che costano la semifinale. Ancora Di Carlo. Volevamo dare gioia al presidente, alla società, in questo momento qua che secondo me che bisogna starci vicini come ai tifosi, di passare almeno questo turno, arrivare in semifinale. Sinceramente tutti quanti noi sull'1-1 non pensavamo mai che potessimo prendere 2 gol, cioè questa è la realtà. Ora la partita forse più importante, quella dell'istanza di fallimento, si deciderà il 20 giugno in tribunale per una situazione debitoria che lascia poco spazio alla speranza. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono quasi 600 i giovani atleti che parteciperanno alla Festa dello Sport in inaugurazione nel pomeriggio alle 17 a Monfalcone e che proseguirà fino a domenica nell'area verde cittadina. Saranno presenti 24 associazioni sportive che offriranno la possibilità di provare sul campo diverse discipline, dalla pallavolo al judo, dal tennis all'hockey su prato. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie ad Andrea Fontanotte e a Giampaolo Zucchi. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Sono le 12:57, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.